Ciao a tutte le compagne e i compagni che seguono Radio Silo. E noi anche questa puntata la trasmettiamo registrata perché domani ricordo che ci sarà un'iniziativa di autofinanziamento del centro sociale. E prima di questo forse ci sarà qualche iniziativa in città. Vista la presenza di Salvini a Salerno, che si è una passeggiata su un lungomare, creando un altro precedente per cui molti compagni, solo per aver dimostrato contro le logiche razziste i decreti Salvini, di cui oggi ne stiamo pagando le conseguenze in termini di restrizione della libertà, e a questo punto va la nostra solidarietà per il compagno di sorge del movimento dei disoccupati 7 novembre di Napoli, fatto oggetto di una pesante accusa il 416. Ci sta un precedente data alla compagna Consiglia, che non sta più tra noi, che anche lei fu oggetto di arresti, poi messa ai domiciliari vista la sua età, poverina, esempio di 416 bis. Su queste tematiche, ecco, ci dobbiamo stare attenti, perché è sempre collegata, le forme repressive si adeguano anche alle, si adeguano principalmente alle progettualità di restaurazione economica, finanziaria, come quella che si prospetta tra l'altro per le varie dependenze di recovery fund, le transizioni ecologiche, eccetera. Ecco, ecco, è bene ricordare che è sempre su indicazione vecchie, perché queste provengono dal decreto Minniti, ma anche prima, e che Salvini le mette in pratica, le colora e ci dà quel tinto di pennello grigio scuro di destra. Ricordiamo che appunto alcune cose, aver reso delle lotte, dei reati politici legati alle lotte dei movimenti di lotta sociale, occupazione di case, o con movimenti, le lotte classiche dei movimenti dei disoccupati, così come anche degli operai. Ricordiamo che oggi, seguendo queste logiche, seguendo questi criteri, per dire fare un blocco stradale ti danno il reato di sequestro di persona, fare un'occupazione di casa, occupare un comune, ti danno l'associazione a delinquere. Allora, quindi rendere dei reati politici di cui non è consapevole, perché se occupo una casa sono consapevole di consumare un reato contro lo Stato, ma se io occupo un lavoro, faccio un blocco stradale, un blocco ferroviario, mi rendo conto che violo vado incontro a delle repressioni. Però una cosa sono le lotte politiche sociali, altra cosa è essere paragonate delle lotte sociali alla lotta di delinquenza comune, addirittura di reati camorristici e mafiosi. Ecco perché bisogna riappropriarci delle libertà. Le lotte sociali rappresentano, perché come l'operaio in fabbrica ha, l'operaio delle fabbriche, il mondo del lavoro ha lo sciopero come arma di difesa e di rivendicazione, le lotte sociali hanno queste forme di protesta. Qua noi abbiamo occupato duomi, abbiamo occupato banche, abbiamo occupato ferrovie, eccetera, eccetera, che sono le nostre forme di sciopero sociale. Così. Questa è la faccenda, però questa è sempre una vecchia indicazione che proviene sempre dal centro-sinistra, sono sempre loro che dettano le linee, le altre le mettono in pratica. diciamo, questo è un caso. Poi, ecco, ci sta il caso dei... Scusate, una sigaretta. Di quello che sta uscendo fuori oggi, quasi più di un anno, delle mattanze, delle macellerie messicane, ecco, come devo dire, messa in atto da parte dei reparti speciali dei carabinieri, dei reparti speciali della Guardia Penitenziaria dei carabinieri, per reprimere le proteste dei detenuti del marzo dell'anno scorso. Ecco, è uscito fuori con video, eccetera, eccetera, e sono 52, diciamo, gli squadristi di divisa individuati, ma erano centinaia. E la scuola di Diaz fa detta lezione, crea un precedente. E infatti, diciamo, il precedente repressivo squadristico di macelleria messicana della Diaz, diciamo, ha ripristinato non solo l'autorizzazione alla tortura, al reato di tortura che si è sempre avuto, però mai con questa palese rivendicazione da parte degli organi repressivi. Abbiamo avuto Cucchi, abbiamo avuto Altovrano, abbiamo quotidianamente tutta una serie di avvenimenti che, diciamo, conclamano che il reato di tortura viene perseguito alle carceri di Bolzaneto, anzi di Ranieri, da Napoli, Bolzaneto, Scuola Diaz, fino alle rivolte dell'anno scorso. Il reato di tortura, diciamo, continua. E il G20 di 20 anni fa andò a sancire proprio questo, il salto qualitativo dell'uso della repressione, che andava anche a determinare il ruolo delle carceri, delle guardie carcerarie come devo dire, ad un'autonomia, quindi economica, repressiva, formativa, diciamo, dell'intero asse diciamo, dell'intera organizzazione delle guardie carcerarie. Anche questo fu sancito durante del G8 di Genova, e che, diciamo, fra 2 settimane fa, ecco, 20 anni, quindi dall'uccisione di Carlo Giuliani alla macelleria sociale della Diaz. Io questa sera, scusate, mi sto fumando, vorrei portare, appunto, anche perché bastano che noi apriamo dei giornali e le vicende parlano da sola, non c'è manco bisogno di un'analisi politica. Per dire, ecco, parliamo, ecco, con le parole di Vincenzo Cartaceo, un ex detenuto sulla sedia a rotelle nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Con il suo racconto ricorda il pestaggio da parte della polizia penitenziaria dello scorso aprile. Sono stato il primo ad essere tirato fuori dalla cella insieme con il mio piantone, perché sono sulla sedia a rotelle. Ci hanno massacrato, hanno ammazzato un ragazzo, hanno abusato di un detenuto con un manganello, mi hanno distrutto. Mentalmente mi hanno ucciso, volevano farci perdere la dignità, ma l'abbiamo mantenuta. Sono loro i malavitosi perché vogliono comandare in carcere. Noi dobbiamo pagare, è giusto, ma non dobbiamo pagare con la nostra vita. Voglio denunciarli perché voglio i danni morali. Ed ecco che, quindi, come devo dire, stanno uscendo fuori sempre più il ruolo dell'ex direttore del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini, che via chat risponde all'amministrazione carceri Campania, Antonio Fulone, che lo informa di aver disposto la perquisizione straordinaria del 6 aprile 2020. diciamo, e nel quale si scatenò proprio la mattanza messicana della polizia penitenziaria contro i detenuti del reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capovetere, provincia di Caserta. Addirittura il CIP Enea definisce un'orribile mattanza. Diciamo tutta una serie, tutti questi video, ricordiamo, testimonianze anche filmate, sono diciamo provengono dai cellulari sequestrati agli indagati, sia graduati che funzionari. Allora, diciamo per noi che sono, è una vita che denunciamo queste cose, però diciamo queste vicende stanno a confermare che la controinformazione fuori dal carcere, la controinformazione dentro e fuori dal carcere diventa sempre importante e diventa mai diciamo spegnere i riflettori sulle vite, sulle condizioni carcerarie. Poi abbiamo il racconto di un ex detenuto che sempre ecco riportato da un giornale, cioè racconta un ex detenuto: noi siamo stati passati per ore, dopo oltre un anno ancora paura e rivive quelle scene di violenza assurde come se fossero accadute poche ore fa. Mi hanno ucciso di mazzate, dal primo piano a seminterrato sono sceso con calci, pugni e manganellato, non lo scorderò mai. Questo diciamo è il racconto un ex detenuto e fu tra i primi a denunciare quando avvenne il 6 aprile del 2020. Quasi questa violenza delle squadriste sono venute da parte di 300 agenti della penitenziaria e hanno pestato per 4 ore, arrivando a commettere proprio vere e proprie torture. Nel giorno prima i detenuti, ricordiamo, avevano protestato quando si era diffusa la voce della positività al Covid di un recluso. Ore di terrore, impresse anche in un video pubblicato in questo suo quotidiano, che mostra le manganellate, i calci ai detenuti e poi anche con quella su quel detenuto che stava sulla carrozzina, quello che poi diciamo che abbiamo parlato in primo punto prima. E quindi i sindacati di questi delinquenti fanno scudo, difendono i loro iscritti, questi sindacati della polizia penitenziaria, e al sindacato della polizia penitenziaria si uniscono i deputati Fratelli d'Italia come Cirillo, che ha espresso solidarietà agli agenti e ha visitato i reclusi e anche del Movimento 5 Stelle Antonio Del Monaco. Il sindacato di questi criminali si è detto preoccupato per la campagna mediatica contro gli agenti, contro la campagna mediatica anche il SAF, che annuncia esposta al garante alla privacy e dell'ordine dei giornalisti, perché sono usciti fuori nome e cognome di alcuni dei partecipanti. Così anche il garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, ritiene inaccettabile l'esposizione con cui sono state sottoposte le persone sotto indagine per le presunte violenze. Vabbè. Erano delle comparse in pratica per questi, i video riprendevano delle comparse, cioè detenuti e accendono solo delle comparse. E domani mi sembra che non poteva mancare Salvini che, diciamo, il giorno venerdì si reca a dare solidarietà a questi scolaresti. È chiaro che, ecco, parlare di Eddie Sorge, parlare di quello che è, diciamo, della mattanza messicana, della macelleria messicana dell'anno scorso, della primavera scorsa nelle varie carceri italiane a seguito le rivolte che sono partite dal carcere di Salerno. Ricordiamo che noi in questa città noi cominciavamo a lavorare, denunciavamo già da tanto delle condizioni cinico-repressive che c'erano nel carcere salernitano. Noi spesso abbiamo dato i volantini, abbiamo parlato con la gente, abbiamo raccolto delle testimonianze, chiaro, testimonianze che diciamo cui difficilmente si facevano riprendere e difficilmente dicevano il loro nome per paura di ritorsione verso i loro familiari che erano detenuti nel carcere salernitano. È chiaro che parlare di queste cose fa rabbia perché al di là dell'aggressione, della violenza fisica, ci sta una violenza proprio da un punto di vista contro la dignità umana, le umiliazioni, così come anche rispetto ai familiari, nel negare per diritto ai pacchi, nel negare un'adeguata assistenza sanitaria. Comunque sono robe da fare schifo e diciamo, ecco, proprio nel ricordo che fra poco ci sarà l'anniversario a 20 anni dalla morte, l'uccisione di Carlo Giuliani e dalla macelleria messicana messa in atto alla scuola di Hertz, così come alla Bolzaneto e, diciamo, precedentemente a Napoli, avvenne nelle caserme napoletane. Allora, il problema è chiaro, il problema è chiaro e questo ci collega a quello che diremo, a quest'opera di controinformazione che noi stiamo facendo sulla transizione, diciamo, di recovery fund, questa enorme forma di restaurazione economica finanziaria che avverrà, che sta avvenendo in tempi molto rapidi nel nostro paese. E diciamo, noi stiamo facendo anche controinformazione sul grande imbroglio per ciò che riguarda l'ambiente, alla transizione energetica. E io voglio sempre ribadire i due concetti: transizione e semplificazione. Cioè, transizione significa trasformazione, semplificazione significa che questa trasformazione deve essere semplificata, che significa nessun intoppo, nessun limite a questa transizione. Quando si parla di nessun limite significa reprimere ogni forma di opposizione a questa transizione, trasformazione. Ed ecco che queste cose sono legate alla repressione, insomma. E così come entrare nella controinformazione del grande imbroglio anche sulla questione di come abbiamo riproposto, ecco, facciamo parlare di giornali. I giornali parlano di per sé, insomma, non c'è bisogno di alcuna spiegazione politica, parlano di per sé. E diciamo, questo tipo di informazioni che stanno veicolando e circolando molto spesso passano così come se nulla fosse, e mentre diciamo perché stavo uscendo fuori in questo progetto di restaurazione finanziaria padronale, economica, nascondono delle cose molto ma molto delicate. Come dicevo prima, molto delicate e pericolose. Io voglio riportare l'ultima esternazione del ministro della transizione energetica, Cingolani, che fanno rabbrividire. Allora, Cingolani si esprime: la transizione ecologica potrebbe essere un bagno di sangue. Fare dei cambiamenti radicali hanno un prezzo. Cioè, questo in un modo, come devo dire, cinico, proprio come Bonomi, no? In un modo molto cinico, semplice, dice che la transizione ecologica potrebbe essere un bagno di sangue. E perché fare quei cambiamenti, perché fare i cambiamenti radicali che stanno all'interno della transizione ecologica hanno un prezzo da pagare. E poi se ne esce un'altra sua esternazione molto ma molto grave, è che diciamo, il biossido di carbonio, il CO2, bisognerebbe farlo pagare sulla bolletta della luce. Cioè, i grandi inquinanti del pianeta non pagheranno un cavolo, li pagheranno i cittadini. Questo è diciamo, in modo molto semplice e chiaro. E diciamo, con questa forma di realismo, diciamo, cinismo, realismo di Cingolani, è proprio, come devo dire, come Draghi, no? Che interpreta il Green Deal europeo in un modo realistico e possibile. Nessuna concessione alla retorica, nessuna bacchetta magica o per accedere ai fondi del Recovery Fund. Il problema è, cioè, come devo dire, quello che è disarmante è proprio che questi stanno parlando in un modo, queste trasformazioni che prevedono inquinamento, distruzione dell'ambiente, precarietà perenne, no? La sanità privatizzata, la cosa pubblica privatizzata, cioè tutto il peggio del peggio lo esprimono in un modo così lineare, cinico, proprio come il presidente della Comindustria Carlo Bonomi, che diciamo che dice con molta semplicità: superare un certo atteggiamento ideologico nel modo in cui si affronta il tema della sostenibilità. La sostenibilità va declinata in tutti gli aspetti, ambientale ma anche economici e sociale, e il tema della competitività deve essere considerato centrale. Cioè, proprio Bonomi, no? Quindi sono fatte proprio sottogliate con l'accetta Bonomi, Cingolani, il boss, il capo dei capi, Draghi, in un modo civico, lineare, con bellissime parole, il progresso, lo sviluppo, eccetera, la modernità, vengono affrontati in un modo che è disarmante, perché non esiste più una forte opposizione politica e sociale a queste manovre di restaurazione industriale, economica, finanziaria, ribadendo, impariamo sempre questo. Per dire, le rivoluzioni industriali hanno dei costi economici e sociali, e bisogna e occorre essere chiari su questi temi, sempre ricordando Bonomi. Cambiare il modo di produrre e consumare richiede molti più anni dei 6-7 anni previsti dai Recovery Fund. Di mezzo ci sono abitudini e stili di vita che non si cambiano a tavolino con appelli da palco e da balcone. per cui bisogna accelerare queste trasformazioni reazionali. Questo è, diciamo, in pratica significa, in nome del profitto bisogna sacrificare i diritti degli operai, bisogna sacrificare l'ambiente e bisogna mettere in atto tutta una serie di scelte, comprese il nucleare civile, per permettere che questo tipo di sviluppo continui imperterriti nella sua opera, che noi sappiamo di devastazione ambientale, e che nulla potrà essere messo di questi programmi, potrà essere messo in discussione. E tutto ciò avviene quando sempre l'ONU, noi parliamo proprio dell'ONU, sui cambiamenti climatici. In pratica un riscaldamento, ci saranno impatti irreversibili sui sistemi umani, se si raggiungeranno i più 2 gradi centigradi anziché di più 1,5, significa che circa 420 milioni di persone in più sulla Terra dovranno affrontare un'ondata di caldo estremo. Fino a 80 milioni di persone in più nel mondo potrebbero essere minacciate dalla fame. Questa è la bozza del rapporto dei gruppi intergovernativi sul cambiamento climatico, IPCC, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Entro il 2080 centinaia di milioni di abitanti delle città africane, dell'Africa subsahariana e dell'Asia meridionale e sud-orientale potrebbero dover affrontare più di 30 giorni caldo estremo ogni anno. In Africa le inondazioni potrebbero costringere 2,7 milioni di persone all'anno, in media in Africa. Cioè, senza i tagli alle emissioni, oltre 85 milioni di persone potrebbero essere costrette a lasciare le loro case nell'Africa subsahariana a causa degli impatti indotti dal clima entro il 2050. Anche in Europa il numero di persone è ad alto rischio di mortalità, si triplicherà se si dovessero raggiungere i 3 gradi Celsius di riscaldamento rispetto a 1,5 gradi. Carenza d'acqua, esodi, malnutrizione, estinzione delle specie, la vita sulla Terra come la sarà inevitabilmente trasformata dal cambiamento climatico. Quando i bambini nati nel 2021 avranno 30 anni o anche prima, qualunque sia il tasso di riduzione dell'emissione di gas serra, gli impatti devastanti del riscaldamento globale sulla natura e sull'umanità che da esso dipende accelereranno. E questo diciamo, rapporto dice che queste situazioni diventeranno dolorosamente palpabili ben prima del 2050. La vita sulla Terra può riprendersi dai grandi cambiamenti climatici evolvendo in nuove specie e creando nuovi ecosistemi, ma l'umanità non può. Il rapporto, cioè, stiamo parlando di rapporti ufficiali, il rapporto che arriva, noi abbiamo visto che durante la pandemia, diciamo, la natura sembrava essersi ripresa. È bastata 24 ore, che noi abbiamo sempre portato come esempio il fiume Sarno, che il fiume Sarno è ritornato ad essere un corso di ruscello, un fiume naturale, a distanza, senza inquinamento, senza niente, dopo 24 ore, quindi col subito dopo il lockdown, 24 ore dalla fine del lockdown, il fiume è ritornato ad essere il fiume più inquinato d'Europa. Quindi gli eventi climatici derivanti sempre dalla distruzione ambientale, enorme sviluppo irrazionale dello sviluppo capitalista, quindi lo sviluppo capitalista, quindi, che ha prodotto questo scempio ambientale planetario, ricordiamo che cambiamento climatico determinerà tutta una serie di scempi problema che la vorrebbero far pagare alle persone, perché il capitalismo, lo sviluppo del capitalismo non sarà mai disposto al risparmio energetico, che significherebbe riduzione dei tempi del consumo e dello sviluppo capitalistico. Allora ecco perché invece di affrontare il problema in termini ambientali, ecco che fanno, ricorrono all'energia nucleare, perché questa è la strada a cui ci stanno portando, motivandola con motivazioni, è davvero cingolani, è molto cinico ed è molto chiaro, pagheremo per l'affermazione, sono micidiali, potrebbe essere un bagno di sangue. Allora, questa è la vicenda di cui c'è bisogno che ne prendiamo consapevolezza e cominciamo ad opporci, così come anche la questione delle biodiversità che sono minacciate, e vediamo che rispetto alla questione quelle che parlavano della transizione energetica, l'ambiente eccetera eccetera, per le biodiversità nel Recovery Fund è previsto solo lo 0,8% dei fondi, quindi i fondi destinati alle foreste, al mare e all'aria. E ricordiamo che tutto ciò, se l'habitat del pianeta, se l'habitat viene messo a dura prova, anche gli animali rischiano di scomparire, oppure verificarsi dei fenomeni antropici che contagiano gli uomini. Noi abbiamo il problema della foresta amazzonica, da cui ci sono seri pericoli di ulteriori pandemie, virus e via dicendo. Vediamo, e poi a proposito di questo, vediamo che questi qua invece di ragionare seriamente, questi vediamo che vogliono addirittura riproporre il ponte sullo stretto, che specie per la questione delle biodiversità farà scomparire tante di quelle biodiversità marine. È chiaro che vediamo che il problema biodiversità, ambiente e sanità è strettamente collegato. Vediamo che negli ultimi 40 anni il numero di zoonosi trasmessa da animale a uomo è quasi triplicato negli ultimi 40 anni. E questo deriva dalla deforestazione, dalla deforestazione, e quindi ecco che bisognerebbe mettere invece in pratica forme di riforestare, di rimboschire ciò che è lo scempio di questi ultimi 40 anni accelerato, insomma. Ecco perché è sempre di più il legame tra le biodiversità e le pandemie. Quando si abbattono le foreste, si prosciugano gli habitat di acqua dolce, si cancellano gli ecosistemi naturali e si spingono gli animali in aree sempre più frammentate, si sottopongono a stress, si alterano gli equilibri naturali, e che ciò leveremo il salto di specie dei virus e la trasmissione di altri patogeni. Ed è chiaro che quando poi alla fine parlo di transizione, se vogliamo salvare l'umanità, il pianeta, la transizione energetica, e poi vediamo che, come devo dire, nella pratica si fa tutto il contrario. Quindi, ecco, quando noi diciamo, denunciamo il grande imbroglio, è che proprio dietro a queste storie immaginifiche, se vogliamo salvare l'umanità, la grande transizione ecologica, eccetera, eccetera, poi alla fine nei fatti si traduce accelerazione ulteriore dei tempi di distruzione dell'ambiente. E quindi l'utilizzo del nucleare civile, così come anche il ritorno, il ripristino anche degli inceneritori, e quindi anche la questione delle speculazioni sul fatto energetico, quindi poi diciamo, infatti come devo dire anche tutto il TAP e il ritorno delle mega centrali energetiche e elettriche, che in pratica determinano anche nell'indotto tutta una serie di aggressione agli ambienti. Allora ecco perché noi lo definiamo il grande problema, e noi dobbiamo stare sempre attenti. Noi nel nostro agire stiamo facendo tutta una serie di forme di controinformazione per la radio, in assemblee, con volantini, e quindi il grande imbroglio, noi dobbiamo, siamo nella fase in cui diventa importante ridurre i danni derivanti che deriveranno da questa enorme trasformazione economica, finanziaria, politica, sociale, attraverso l'utilizzo dei recovery fund, che ribadiamo sono soldi pubblici, anche a pagherò, ma sono i soldi pubblici che noi pagheremo, in pratica noi pagheremo i nostri che boia, per diciamo farci morire lentamente. Quindi noi con i soldi pubblici ne andremo a finanziare delle opere, grandi opere, non solo inutili, costose e dannose, ma come devo dire andremo a finanziare con i nostri soldi che cosa? La lenta trasformazione negativa diciamo non solo della nostra nazione italiana, ma dell'Europa, del mondo intero. La trasformazione che andrebbe a cancellare e a ridurre sempre di più quell'equilibrio armonico che è già reso fragile tra l'ambiente e l'uomo. Ecco perché diciamo, è fondamentale riprendere le manifestazioni contro questa distruzione lenta che però stanno accelerando la distruzione dell'ambiente, e dovremmo mettere in atto quelle forme di protesta e anche mettere in atto anche esempi di una società diversa che è possibile, sia sul tema ambientale, sul tema della relazione sociale, sia sul tema della dignità del lavoro, contro ogni forma di schiavitù, perché è tutto collegato. Cioè lo sviluppo capitalista, i temi dello sviluppo del capitalismo produrranno questi effetti che diciamo ecco, riportati addirittura dai media ufficiali, non sono dati delle realtà antagoniste, ma sono dati ufficiali, e basta solo aprire un giornale e leggerli, che non solo ecco, sono da brividi. Ed è un macello, ed è un macello, ed è un macello. E questa trasformazione, questa transizione, questo passaggio che diciamo Draghi e i loro sgherri e i servi sciocchi quindi del Fondo Monetario Internazionale, della BCE, dell'imperialismo, del colonialismo, questi messaggi che diciamo con linguaggio ultramoderno che chissà che lasciano presagire situazioni magnifiche mentre nascondono al suo interno delle cose veramente orribili. Ricordiamo distruzione ambientale, distruzione della dignità umana necessita principalmente per portare avanti questi percorsi, questi progetti della repressione e delle guerre. Cari compagni e compagne, alla prossima. Ciao!